Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata dedicata alle mamme e ai papà, ma anche ai libri per bambini e ragazzi. Partiamo da Mia figlia è una iena, scritto da Francesca Del Rosso e pubblicato da Kobalski. Non è propriamente un manuale di consigli, piuttosto è una serie di racconti carichi di ironia su molte situazioni tipiche delle neomamme, dalla prima ecografia all'allattamento, dalla nanna al rapporto con i nonni. Tutte situazioni comuni, dunque, con una particolarità. Francesca ha a che fare con una bimba che piange veramente sempre e che per questo lei chiama scherzosamente Iena. Ecco allora come l'autrice ha cercato di risolvere il problema del pianto. I metodi sono stati tutti, nel senso che ho cercato di... Prima ho iniziato a leggere dei manuali per cercare di capire dove stessi sbagliando e che cosa avrei potuto fare per aiutarla a smettere di piangere. Quando ho capito che anche i consigli e i manuali non funzionavano e soprattutto quando capivo che comunque non aveva niente, quindi aveva dormito, aveva mangiato, aveva bevuto, non aveva caldo, non aveva freddo, eccetera, eccetera, eccetera, ho iniziato a mettere in atto qualunque cosa. Uno dei metodi che più ha funzionato era quello di metterla con la sua bellissima carrozzina sul balcone, chiudere ermeticamente la porta, cioè io stavo dentro e lei stava fuori, e dopo una ventina di secondi smetteva di piangere. E c'è qualcuno che mi ha detto ma con tutto lo smog che si sarà respirata a Milano, io abito in una zona molto trafficata, molto inquinata di Milano, e quindi lei necessariamente si respira quell'aria tutto il giorno. Se però il rumore e lo smog funzionavano, ben venga. Ma non hai paura che qualche mamma, magari leggendo questo tuo libro, rimanga un po' scioccata da questi metodi piuttosto strong? Ma ho avuto delle reazioni da parte di alcune mamme anche un pochino appunto critiche. Devo dire la verità, credo che ognuno debba trovare le sue soluzioni e i suoi metodi. Io non critico gli altri, il mio non vuole essere un manuale che dà dei consigli che funzionano per tutti. Io racconto queste mie tecniche, alcune volte un po' audaci, un po' coraggiose, che però hanno funzionato. Di fronte alle critiche dico, io credo di essere assolutamente una mamma imperfetta e anche una donna imperfetta, ma insomma, chi non lo è, ecco. Sottotitolo del libro Mia figlia è una iena, il sottotitolo è Quello che le mamme pensano e non dicono. Quindi tu hai avuto il coraggio di dire veramente tutto quello che le mamme pensano, anche nel momento, per esempio, in cui sono molto arrabbiate con i figli? Io credo di aver detto molte delle cose che io ho pensato, forse non tutte. Sicuramente mi sono accorta anche poi dalle reazioni delle mie lettrici che molte cose che noi mamme pensiamo non vengono dette in pubblico, ma le pensiamo praticamente tutte. Un esempio classico è quello dell'allattamento. Si parla tanto bene dell'allattamento, di quanto sia speciale, di quanto sia incredibile il rapporto che si instaura con un bambino. In realtà io avevo una visione tettocentrica del mondo, ero totalmente concentrata solo ed esclusivamente sull'allattamento, che comunque è stato faticoso e anche doloroso, e quindi io tutta questa magia dell'allattamento sinceramente non l'ho vissuta. E quando poi ho iniziato a dirlo in giro, tantissime mamme mi hanno detto, in effetti è vero, allattare costa fatica. Quindi insomma, la maternità è una cosa straordinaria, lo sappiamo, ma è importante anche dire che non sono sempre tutte rose e fiori. Assolutamente non sono tutte rose e fiori, e forse dirlo aiuta in qualche modo le mamme che magari si sentono un po' sole, che non hanno grandi appoggi, a pensare che le difficoltà che vivono, soprattutto per la prima volta, sono difficoltà condivise e condivisibili. Quando capisci che tutte le mamme passano dei momenti di sconforto, delle grosse difficoltà, scoprire anche che c'è chi ci ride sopra, che forse è l'unico modo, è anche un po' riderci sopra, e in qualche modo essere un pochino più leggeri, può aiutare. E questa era Francesca Del Rosso, autrice di Mia figlia è una iena, pubblicato da Kobalski. Prima di passare ai libri per bambini, un'altra segnalazione per genitori. 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino. L'hanno scritto a quattro mani Giovanna Canzi e Daniela Pagani, pubblicato da Newton Compton. Diviso ovviamente in 101 capitoletti, fornisce consigli pratici per una Milano a dimensione di bambino tutta da scoprire. Dalla possibilità di assistere ad un concerto al conservatorio, alla visita al planetario, dai musei con percorsi adatti ai più piccoli, alla possibilità di assistere ad una lezione di educazione alimentare in una rinomata gastronomia. 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino, pubblicato da Newton Compton.